sole di febbraio contava i tuoi capelli, quei raggi caldi li facevano ancora più belli. Non mi chiedevo più se questa fosse la realtà, insieme a te tutto esisteva già. E dentro a quei tuoi occhi quante volte son caduto, ad essere sinceri sai mi ci sono perduto. E mentre passeggiamo per le vie della città, all'orizzonte il sole muore già. E io me lo aspettavo di stare insieme a te, come un raggio di sole mandi via le nuvole. È stato facile per te riuscirti a raccontare, per me lo è stato saperti amare. Sole ora è andato, tra poco tornerà. È come il vero amore, quando arriva via non va. E intanto ci attardiamo un poco lungo quella via, vicini la tua mano nella mia. E sorge, sorge il sole, non trovo le parole, non bastano per dirti tutto quello che ho nel cuore. I giorni, i mesi, gli anni, tutto questo passerà, ma un sogno si è concretizzato già. Il sole di febbraio contava i tuoi capelli, quei raggi caldi li facevano ancora più belli. E non mi chiedo più se questa sia o no la realtà, con te tutto il mio mondo esiste già.